copia infatti. Isabella Zando. Mortorio, mortorio, Antonè, mortorio. Non so, le farmacia io vicino a casa nostra. Ho di là le buste per Giampiero. Io pensavo se mi stava parlando le buste della Mondezza per pisciare. Perché gli ho detto, guarda che te sono tutto pieno di macchie. E con le buste per la sicurezza non si aprono in due. Quindi per la legge ho detto, cosa vuol fare? Ah, per il cassetto, ci vogliono le sue, quelle buone. Aspetta che mi hai risposto, ma quelle costano di più. A me non me ne frega niente, allora ho detto, io scendo al centro storico, me le prendo con subito di Emanuele, gli ho detto. Non ci metto molto, gli ho detto. Per carità, cazzo, anche lì devono fare le sue proprie azioni. Non ho capito. Ma se la faccio mettere le mani in mezzo alla... Ogni volta le mani in mezzo all'ovina devo mettere, cazzo. Poi con la matriteccia della psoriasi nelle mani. Cazzo, già mi piglio le patrici, senza neanche bene. Stai attento, usa i guanti, usa le cose, le precauzioni giuste, Antonè, che sennò casino. Ma anche i guanti uso, non mi piacciono i guanti a me, non viene male usare i guanti con me, lo sai. Qui devo fare le cose senza guanti. Domenica, tu acqua, già da domani inizia il tempo brutto, sono contento, però ora ti ho messo un po' questi, a noi c'è un pochino di fresco, ti sta bene almeno questi giorni. No, vabbè, fresco già c'è fresco, però l'acqua ci vuole, capito? Speriamo non ci siano temporali, però l'acqua già ci vuole. Quindi se c'è grandi non ti preoccupare, io già la mattina la c'ero in garage, quindi non succede nulla. Sì, almeno si lava. Almeno si lava la macchina. Con la grandine, non credo, no? No, beh, grandine no, l'importante è faccia acqua normale senza fare danno, va? Sì, se fa grandine sei fottito, se lasci la macchina fuori non ti preoccupare. Cazzo, ho visto la foto l'altro giorno, ogni buco. Non hai visto quel temporale che ha fatto tempo fa? Cazzo, mi ha abbassato dei grandi, si asciuga. Paria uva. Ma no, più cosa è l'uva questa piena? A parte che ti fossi, ho visto le fotografie in Alta Italia. La grande è quanto una... C'è presente le susine, quelle grandi. Uguale. Tutta la lamiera di una macchina, tutta buccata era. Tu finora ti metti in condizioni era. E che ti va a fare la simulazione? È una vita naturale. Grazie, è cosa che ti piglia a capo, sa grande, eh? Antonio, se lo vado lo capo a Bumbuglione. No, non cesco in moto io in giro così. E faccio a piedi, solo che in culo, rimango a casa. E cosa riparate sotto ai tendoni? Quello buca. Quelle sono pietre, capito? Quelle fanno danno. Non lo so, dobbiamo stare un po' attenti. Speriamo che non succeda. Comunque ha dato acqua a precipitazione, non ha parlato di temporale. Speriamo bene, ma... E se sta facendo fresco così questi due giorni va bene, non succede nulla. Il bello di colpo, il giorno prima c'è 40 gradi e poi ti arriva una passata di grandine. Invece così piano piano sta rifrescando il terreno e quindi si sta bene. Almeno qua siamo fortunati, almeno noi. Visto in America, è entrato Trump e lo stanno sussando, Gesù Cristo, visto vai, uno, due, tre orari, uno appresso all'altro, così impara, ma non è che cambia tutto lui, te lo dico io, se lo vuole morire sott'acqua. Anche lì sta facendo un po' di casotto, soprattutto quell'ultimo che è arrivato lì, esce a Miami, Florida, casino che ha fatto. Tranquillo, già cambia idea. Se lo vuole morire sott'acqua lui, tranquillo che già cambia idea. Vediamo di salvare il coso là. Il coso che c'ha, i beni che c'ha, le case, i terreni, quello che è. Gli alberichi, allora mi è passata la buglia, allora vedrai cambia idea. No, non ne uso più con il carbone, no. che ne ha fatto sei e do quanto ne già avere di nappa con tassi al gas e non credono perché io guarda mi stanno arrivando una passa all'altra adesso poi in due giorni era normale che l'avessi anche tu una passa all'altra quindi tranquillo che ne passa la voglia già ci ragiona non ti preoccupare lì sono una cosa allucinante a parte manco cosa manco pezzuglio nulla tutto un ragazzo non è visto un altro ragazzo c'è solo la togliere del soldo e basta per i danni che c'è che ci sono e basta quindi io penso non mi convenga più penso che mi conviene ragionare diversamente ma l'importante non ci siano molti perché non c'entra nessuno con la calamità naturale, capito? L'importante non ci siano molti, poi se deve piovere che piova, c'è la biglia e luci, tanto adesso inizia l'inverno, quindi le piogge saranno più frequenti, no? Quello sì. Va bene che piova almeno un pochettino. Tutto l'inverno. Ma siamo bene, se no io e siamo a posto già. In Italia non c'è manco acqua per il fiume e poi dalle montagne, figurati tu in che condizioni arriveremo se continuiamo così. Meglio che piova tutti i giorni. Vabbè, anche da noi la pioggia ci vuole comunque. Ma stavo ascoltando in Sicilia stamattina, perlomeno lì nelle zone di Agrigento, Catania, è tutta la mattina che piove, piano piano però è leggera senza fare danno, capito? Sì, meglio così, almeno non soffro di acqua. Aspetta che sto comprando delle apparecchi, ci rientro fra poco. Lampa di tutto Antonè. Ah, ciao Marco, ciao tu, Lampa di tutto. Non è che sono un telefono di quelli, quello vecchio, è fissato con quelli, visto tipo quelli dello Spin. Mi sembra che ce l'avevo, ma adesso non me lo trovo, la verità. Forse ce l'ho in garage. È passato di queste cose qua. Tu non vuole un telefono di quelli normali che usiamo noi per dire 50 centesimi, uno di quelli con la tastiera normale mi interessa, senza quel faccia foto né niente. E mi sembra che ce l'avevo messo dopo cercarla, ve lo cavo l'ultimo mese, ne avevo uno. Sì, buonasera a tutti, scusate l'irruzione, chi c'è oltre Claudio? Ci sono io, perché non ti batto? Sì, ciao Natalì, ieri sei sparito, di botto, pensavo ti fossi addirittura sentito male, poi sono passato tipo alle 8:20 con quella cosa lì, ho bussato, ho aspettato un minuto, non ha aperto nessuno si è affacciato, allora sono andato via. Eravate fuori? Non c'erano. Prima mi è mancato la luce, sono sparito di botto per quello. E poi sono dovuto uscire a comprare roba con quell'amico mio, perché stasera ce ne andiamo a pescare, se torna. Eia, ah vabbè, dai, comunque la prossima volta dai. Tanto io lì passo spesso lì dove abiti tu. E quindi alla prossima te lo do. Eia. Anche se secondo me Natalì non è il baracchino, ah, io il mouse che non si muove, ma buffami luci, dai, anche se fosse il wifi. Avanti Claudio. Ma poi io l'ho visto stamattina, aspetta un attimo qua, l'ho visto stamattina e non mi ha detto niente, vuol dire che se lo metto a un watt posso parlare e non disturba nessuno. Oh, ma vabbè. Claudio, riprendi. Va bene, ciao Natalì. Come lo si è sentato un attimo, ciao Marco. Come dice Marco, Natalì, punta un po', perché insomma il computer è una cosa, il mouse è un'altra. Non capisco questa. Comunque, per quello che dobbiamo fare, tra di noi ci sentiamo, quindi lascialo un watt, io sto uscendo con 5 watt col DAC, quindi. Perciò non ci sono problemi, capito? Già ci sentiamo lo stesso, c'è bisogno di stare a mille. E infatti, a un va. chiamate vuol dire che non lo disturbo. E tu pensa, la mia antenna è sopra il suo palo, a me non mi fa niente al computer, cioè il mouse ce l'ho di quelli senza fili anche io, mi avrebbe dovuto disturbare il mio. Ma è una cosa un po', così come dice Marco, capito? Anch'io ho il mouse senza fili, accendo il computer ad alta potenza, a bassa potenza, non mi ha mai disturbato niente. Poi, non lo so, Marco è più preparato in materia, se lui ha detto così vuol dire che così, no? Non c'è niente da fare. E me Marco lì, mandegato asa ieri. Sì, ma niente di che. Prima abbiamo mangiato melanzane, non so, melanzane grigliate con ragù, una specie di, non mi ricordo come si chiama, come si chiama quelle melanzane tuffa? Melanzane trifatte? No, tipo la parmigiana, mi, le erano molto buone. Poi pollo, un pollo bello umido, buono, con insalata, niente di che, me, non andiamo lì a buffarci, a uscire negli occhi, no? E poi una panna cotta mi sono mangiato, tutto lì, era più che per passare il tempo, mamma però non, era un po', non se la sentiva, era stanca, me. Appena mangiato se ne voleva già andare via. Ho detto no, stiamo un po' a parlare, dai, se non sembra proprio, ma okay, che siamo venuti a mangiare e poi c'era un debo, tipo mensa. Tutto lì. Stamattina avevo un sonno molesto, ma ho dormito quasi tutta la mattina, poi mi svegliavo, mi giravo di nuovo sognando, fino alle 4 di sera. Non so, sembrava quasi una malattia sta cosa. O lo faccio per sfuggire alla realtà, questo di dormire, così almeno sogno e non penso alla mia situazione, così, capito? Può essere, può essere. E Pomponio si è assentato, così è. Ah, sappiate quanto vengo, ma se no ti faccio fare la cura nel sedere. Ehi, Antone, dai, che sono un po' depresso, diciamo. Mi devi chiamare al più presto, anzi chiamami subito. Sì, che cosa? Certo, ho caricato l'uno e me ne vado il credito di 7. Devo telefonare adesso alla posta numero domani mattina, ma di sapere, però di sapere perché in questa storia. Ho caricato l'uno e il 7 non c'è neanche una lira. Non ho capito perché. Eppure non c'ho i dati li ho chiusi, cioè in pratica io internet non lo stavo usando. Mi sono rimandato a ritirare. Hai capito? E volevo sapere il motivo perché 7 giorni sono, dici io. Se è 7 non è 10, no? Perché ho 10 alle poste. Eia, ma allora vuoi che ti chiami io se non hai credito? Chiamami tu, dici, quando passi e tiro quella cosa, non c'è problema. Perché sono senza credito, vabbè, a meno che non mi chiami in PML e facciamo prima. Così ti risparmi anche la fatica del corso. Il PML è già in carico. Eia. Vabbè Antone, ci sto chiamando ai pro breve, dai. Che voglio informazioni su quel foglio ISE, vediamo se ne esce qualcosa, perché così non si può andare avanti, dai, questa moto è sempre ferma, non riesco a mettere le moto, non ci sono soldi, dai, in più, vediamo, riprendi Claudio, dai, un attimino vado al telefono, dai. Gappa, hai parlato al telefono, è meglio già PMR, Antonio, cose vostre, dite per il telefono. E quindi Natalì, vai a pescare di nuovo stanotte, stasera, tappa di me, perché c'è freddo, eh? Natalì, chi peschi? Tu la canna? O la canna è tu? Eia, stasera me ne vado a pesca, con quell'amico mio. Cioè, senti, sì, come te lo pensi allora? Che pescava lui da solo, gli altri no? Vuol dire là, che non so bene picca e piccava su Rueto, a chi si abbia piccato. Che cosa c'entra quello? No, lui era fortunato, bello è quello. Era con il fratello, pigliava gli altri vinci. ne comprava tre, a me me ne dava uno e gli altri due vincenti i suoi, hai capito? Quindi cosa vuol dire quando va? Non mi dà più gratte vinci, quelli che fanno schifo. Aspetta, io vado a andare a mangiare il cane. Ma poi purtroppo è così, sei che fortunato purtroppo, io invece no. Ma tu pescava tutti i giorni, me lo ricordo qua, quando scendeva giù a Pattamone c'erano quei casotti famosi, andava a pescare lui, una lì cazzo pescava, lui da solo, non è bello quello. E magari era più bravo degli altri, si applicava di più. A me per esempio mi hanno insegnato un calamento che io non avevo mai visto così, l'ho usato e ho pescato di brutto, altro che no. Io così non avevo mai visto come me l'ha fatto vedere questo qui, perché pescavo in un'altra maniera. Sì, pescavo, ma non così, a tiro lungo. Adesso ci devi dire qual è il calamento, ce lo devi spiegare bene, se no non ti facciamo più modulare. E chi cazzo non se ne frega? Guarda, lui che calava solamente la pausa, te lo dico io. Preferisci il pesce a parlare con noi, così è. Ehi, se tu vieni mi con me, vedrai che tu non dormi più fino alle 4 di sera. Quando ti ritiri alle 4 del mattino, vedrai che cadi in un sonno profondo e ti alzi verso l'una. Eia, a parte che io mi alzo sempre verso l'una, anche più tardi. Un attimino, Antonetti, ti sto chiamando, dai. Dai, riprendete. Non c'è Claudio che è andato a dare a mangiare il cane. Eccomi qua. Dove andate ad andare a pescare? Cosa, Claudio? Ho detto dove andate a pescare. Non lo so, adesso che cambiamo posto oggi, boh. Vediamo un po', perché là ci hanno buttato la rete e la roba grossa non entrava. Ah, beh, allora se hanno buttato la rete è un casino. E comunque c'è un po' di maestrale, qualcosa del genere, sicuramente già si pesca qualcosa oggi, eh? Io non ho mai pescato così in quel modo, non lo conoscevo neanche quel calamento lì. Perché io pescavo sempre a fondo e cose. Questo è complicato come calamento, ma già me l'ho fatto. E adesso ho due canne, porto quelle lì, una a bonga a fondo e l'altra a bonga a picca. E sicuramente quell'altra va meglio. Ma a galleggiante una così? Una è a galleggiante, però è un calamento complicato, cazzo, non avevo mai visto così. A tiro lungo vai. È complicato come... Me l'ha insegnato questo amico mio, mi ha preso il galleggiante, quello che ci voleva e praticamente quello lì funziona benissimo. E sono quei galleggianti a punta, no? Quelli fili, quelli invece. Sì, quelli lunghi una ventina di centimetri che si mette lo starlight per vederlo di notte. Sì, anche mio fratello fa così, capito? Usa quella tattica lì. Oppure al lancio, capito? Però già, con quello lì ti diverti di più. Sto dicendo che è di lusso. Non ti dico com'è fatto perché è un casino a spiegarlo. È un bel complicato e non è a galleggiante visu, come te si trattano normalmente. No, già l'ho visto come l'ho visto mio fratello, capito? È un sistema diverso. Però ti diverti, ti diverti un bel. Ehi, poi posso metterlo a quanti metri voglio, è regolabile, mi. Cazzo, guarda, è una cosa bestiale. Sì, lo puoi regolare in base al fondo che c'è, capito? È un bel sistema, già va bene, ma manco divaghi un poco. Infatti. E già non si è più sentito, deve essere partito in Florida anche lui. E cosa ne so, chissà, il gatto si fa sentire, non si fa sentire, boh. te dica. Comunque guarda, vediamo un po' come va stasera. Sì, già va, già va. L'importante è andare a divertirsi da Egitto, poi già va. E andiamo io, quell'amico mio e un'altra amica. In tre andiamo, come l'altro giorno. Perché Giuseppe non può venire che c'ha lo zemino oggi alla faccia nostra. Ma Giuseppe chi, Leoncino? No, un altro amico nostro, di queste parti, so. Ah, ho capito, ho capito. Va bene, va bene. Ma da terra però andate, non in barca, così è. Da terra andiamo, cos'è in barca? In barca mi è arrivata a bestia. Peccato me l'ho venduto quel gommone, vaffanguala a me. Il gommone anche se non lo usi per andare al mare, però quando decidi di andare a pescare con le belle giornate, tutte quelle settimane di libeggio, ho già derivato, avresti riempito il freezer di pesce. Poi io mi so fare i parametri, mi so fare tutto, perché mi ha insegnato mio fratello. Mi è rubata bestia così. Quando c'hai il gommone, una barchetta, anche se non la usi d'estate per divertirti al mare, però quando c'è bel tempo, calma piatta. Da noi, dice, allora mi andiamo a fare una beccata, capito? Te riesci anche la sera, su tardi, dopo pranzo. È già bello, è un bel divertimento. Il problema è le tue balle, dove tenerlo. O lo tiri sul carrello ed è un lavoro, portarlo in acqua, toglierlo e farlo, oppure devi tenere a bagno. A bagno posti non ce n'è, è un bel casino. No, io mi trovo bene col carrello. La vacca mia si parava giù, non l'ha compreso. Era ribaltabile il carrello, aveva un carrello bauroso. Da sola scendeva. E già me lo ricordo quello tuo, però sto dicendo, se uno è da solo che c'è un carrello, è un lavoro, mamma mia, tirarlo su, metterlo a bagno, un casino. No, non è così difficile, io da solo, ce la scendevo la barca, sia la barca che il gommone, perché il carrello vuole bene equilibrato. Secondo la vacca chiede, va si fosse in questa maniera, e la vacca si fa la asura. Vabbè, a tal punto ci vuole pratica, capito? Io non ne ho mai fatto, e quindi è un casino. Però chi è pratico, chi ha sempre avuto il gommone col carrello, è facile. Ma io ho insegnato anche a un amico mio che ce l'ha il gommone, se io lo voglio il gommone ce l'ho, perché ce l'ha un amico mio con un motore da 40 cavalli, uno da marina, è bello, gatto, da 6 metri. Sì, per te c'è già una vacca, non un gommone. No, a me piacciono quei gommoni piccoli, capito, 3,50 m, così, con un 25. Da poterti divertire sia d'estate che d'inverno, quando fanno belle giornate, andare a fare qualche pescata vicino, capito? Io l'ho insegnata con l'amico mio, perché lui non lo sapeva mai scendere, nulla. Ah, rasura, te l'ha giuvarato, non ha compreso. Gliel'ho fatto vedere e adesso lo sa fare lui, come salirnelo e scenderlo. Lui da solo non poteva mai andare, scendeva con le porte sempre, però non sapeva nulla. A me me l'aveva insegnato mio fratello, me l'aveva tutto imparato secondo la barca che era e via. Li rulli con i bocci a rugusuio e si va la asura. Il problema sono i rulli, no? E allora, tu secondo la barca che gli devi appoggiare bene i rulli e li serri come devono essere serrati. E la barca non è che vuole dritta, a chi cade dritta non si fa la barca la asura, vuoi impennata, no? Certo che sì, e ho capito che avevi quello che si sollevava la prua. Poi io c'avevo quello ribaltabile, il carrello era più facile, cazzo si parava asura. Gappa gappa, ehi. Aspetti, rispondo al telefono. Sì. Nathalie, che è mio cognato, è rimasto a piedi con la macchina e sto andando a prenderlo qua vicino a casa, ci attorno subito. Cappa. Vabbè, c'è rimasto nessuno? Cosa? C'è rimasto nessuno? Tutti morti? È andato a recuperare il cognato che è rimasto a piedi, Claudio. Ah, è rimasto in panne, diciamo. Sì, signora. Eia, aspetta un po'. Stavo sentendo comunicazioni. Eia. Si dice la dea, la fortuna è bendata, ma la sfiga ci vede benissimo. Te credo, io neanche ne faccio quest'anno di modello ISE, Marco, perché c'ho il reddito della disoccupazione ancora, al prossimo anno, va. E beh, Marco, Marcolino Condo. Scusa, non te diciamo al telefono di nuovo. Dimmi, Marco. Sono al telefono, un attimo. Sono tornato, Natali. Tu cercando i cavetti non hai giù. Cosa, Mar? Là. No, ho detto, stavo cercando i cavetti della batteria, non li trovo e quindi non ci vado. Vabbè. Quindi voi siamo sempre in macchina. Sì, ma io ce li avevo in macchina. Sicuramente ho la figlia di un bittino di l'aria e non l'ha messa a suo posto. Ho già iniziato qui. Erano nel cofano al 147, non ci sono più. Quella che usi di più la macchina, mettiteli nel cofano. Sto pensando, voi li ho messi, ma no, non riesco a capire. Meno sia anche da minori. No, quella piccola non ce n'è. Lo so perché ieri proprio stavo pulendo il cofano, tutto. Che palle. È Marco rientrato. Marco! Cosa c'è? Valerio! No, non sei tu dalla risata. Io sei tu, è Franco, mi. Bello, sempre in ascolto lì. Beh, fresco ne hai, sì. Ehi, ti ho detto se c'hai fresco. E dice che domenica piove. Che suga, hai aumentato. Ma cosa hai fatto? Ma sei a casa o in macchina? Oh, la scarpetta è attaccata. Ormai ti sei dedicato ai baracchini, anche tu, ma io sto usando il baracchino lo stesso, quello grande, valvolare, con le BB5. No, vabbè, io lo sto usando perché era un bel fermo, non lo stavo usando più, quindi ho messo le BB5 e lo sto usando, dai, 8 watt, dai, così 7-8 watt già va bene, e non c'è problema. L'importante è ci sentiamo, vale, intanto per quei pochi siamo rimasti a farci due chiacchiere, c'è anche Natalino, ma non so se lo senti perché lui c'ha la potenza bassa. Natalino, lo senti a Valerio? No, negativo. Non l'hai sentito, no, Vali? Non ti accoppia neanche lui. Che in potenza bassa, capito mi hai? C'era anche Marco, boh, il panito è. Devo dire che... scenderà Iana, sa contro un gabbaro grocco. Attento Marco Condo, era il telefono con Antonello Alessio e si è perso. Era più sicuro, Ascolta, è a parte segnale come radio, come mi ascolti, bene? Buona, dai, amplificata, va bene, la tonalità va bene. Già va bene, dai. Era un MB5. Che ho preso da Gigi che non lo usava. E l'ho messo qua su questo baracco. Almeno facciamo funzionare, dai. Non lo sto facendo funzionare perché col microfono normale non mi piace a me, non riesco a parlare. E allora, amico, col microfono a tavola già va bene. E vabbè, secondo le circostanze, però io sono abituato, microfoni da palmo io non li ho usato quasi mai. Sempre microfono a tavolo, capito, Vale? E quindi ci sono abituato, è più comodo, è molto più comodo. Vabbè, pazienza. E me è andata lì. Marco non è entrato più. Sì, che Marco è rientrato. Stavo stampando un documento. Oh, mamma mia. Saluta Valerio allora, visto che si è entrato. Ciao Valerio, bello forte, pimpante. Bello forte, sì. cos'è questo odore? Roba di pappatoia. Lo sai che ho lo stomaco chiuso un po'? Non lo so. Beh, vediamo di mangiare qualcosa poi. Verso le 7, dai. Bene, vai Nathalie. Ehi Nathalie, non si è notato. Oh, dove va lì? Giuseppe che fine ha fatto? Si è più sentito? Perlomeno qua su 10 non l'abbiamo più sentito noi. Sta bene, l'hai visto, l'hai sentito? Ehi, magari quella maestralata l'ha danneggiata ancora di più. Vabbè, bisogna che si decida cosa vuole fare lì. Se mettere l'antenna come cristiani o che cosa vuole fare? Sì, ma senza tanta voglia, Non lo so. Mangia poco Marco? Sì, mangia poco e frequente. Beh, quello è vero, poco ma frequente. Caspita. Caspita, mi sta finendo anche l'inchiostro della stampante. Dovrò andare da Auchan. Quando capita, pigliare tutto il pacco di 4 cartucce. I miei costano poco, tipo 8,90 la cartuccia, vabbè fai 10,90 così, certe cartucce costano 15 euro. E poi il pacco multiplo viene, il pacco multiplo tipo 34,90, e hai tutti quanti i colori, nero, magenta, ciano e giallo, e conviene perché mi stanno finendo già due colori. Se devi stampare qualcosa di urgente basta venire qua, lo metti in una penna USB e stampiamo quello di voi. Sì, no, ancora inchiostro ce n'è, anche se dice subito a fare il triangolo rosso, inchiostro in esaurimento, e io finché ce n'è, fino all'ultima goccia lo voglio usare. E poi vabbè, compreremo le cartucce. È una Epson, ormai le fanno tutt'uno, fa da stampante, scanner e fotocopiatrice, anche da con computer spento, basta accendere, mettere il documento, premi il tasto e fotocopia. Aspetta, è una comodità mia, costano una cosa ridicola, dalle 29 alle 30, 39 euro massimo, e c'è tutto in uno. Tu goccia, tu mai goccia più l'inchiostro della stampante? Eh sì, quando la compri ti danno degli inchiostri di prova, no? Delle cartucce di prova, ma penso che siano comunque piene, no? Ebbene, inchiostri costano, qualcuno mette inchiostri lonfi, inchiostri schifosi di marche, e io dico no, perché la Epson usa degli inchiostri particolari a pigmenti, resiste anche alla pioggia, quindi per quanto possibile è meglio usare le originali. Poi quando le originali non si troveranno più, allora si può ricorrere a inchiostri della concorrenza, ma finché le trovi bisogna usarle quelle. E se no poi comincia a stampar male, capito? Beh, infatti. Oh, vale! Vale! Ma vale il dubbio, vale! Ega. Mi ricordo che mia mamma mia, quando avevo stampato una cosa, sembrava vera, vera, impressionante era. Sì, già me l'avevi detto. Hai visto la foto che ti ho mandato del 48? Eia, sì. Si vedono proprio le lucine più gialle, tipiche del 48, sulle manopole. Eia. Beh, 48 old vale, purché in perfette condizioni, come ce l'avevi tu. Perché certi te li vendono senza staffa, senza niente, microfono non originale, così. Poi stai comprando una solo il baracchino senza nulla, e in macchina non te la puoi mettere, vabbè, a patto di comprare la staffa. KK. Va bene. Natalino. Il mio è nuovo, mai usato. Ho tolto la busta, la staffa ancora dentro la scatola, le guide sono attaccate, il microfono originale già l'ha visto Massimiliano, nuovo, ce l'ho sempre avuto io quello, perché ce l'ho in concessione, capito? Non l'ho né mai modificato né mai dato. Eia. È fatto bene, dai. In FM funziona altrettanto bene. Alla grande. Vuoi provare? Proviamo, giusto 30 secondi. Considero perché è cacca, fammi pensare, di quelli buoni sono 1, 2, 3, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, poi se conti piccoli, 7, 8, 9, 10, se conti l'FM500 e il 548SX, senza contare il portatile Max con 7 che funziona sempre dopo, è stato comprato nell'86 e funziona ancora, è incredibile, quello con la valigetta, ce l'hai presente? Sì, l'ho avuto anch'io, quello ce l'ha anche Gianni mi pare, no? Lui ha l'Intec, valigetta emergenza Intec, è simile come concetto, ha l'antennino con base magnetica, valigetta, attacco a cenni sigari, sai, le solite cose. Sì, la base, quella basettina magnetica piccolina che si mette sulla cappotta per attaccare l'antenna. Credo anche una custodietta, perché da me dentro le batterie non ci stanno, allora c'è una custodia in cartone, che fuori ha l'aspetto della pelle ma in cartone, dove sul retro metti tutte 10 batterie ricaricabili o non ricaricabili, capito? 10 batterie, pensa all'epoca in pile quanto dovevi spendere, e caspita, tipo dura, c'è, no? Adesso vabbè, ci sono anche ricaricabili, quelle di Lidl vanno anche bene. Bella bestia, dai, io l'avevo preso perché l'avevo visto da Pomponio e riceve, va bene, ci va bene, allora l'abbiamo comprato da Cine Radio nell'86. Cine Radio, un bel negozio, quello c'era un po' di tutto, peccato, tutti i negozi buoni hanno chiuso, fa caridare. Guarda, io da ragazzino da Cine Radio ero un affezionato, sbavavo quando vedevo i lettori di cassette, sai, quelli con radio, musicassetta, con autore verse, perché i lettori, caspita, di cassette, i Walkman, erano anche sofisticati, ne avevo preso uno che non vi giù. Poi, siccome ronzavo un po', l'avevo regalato a una compagna di scuola, ho detto, guarda, fa un piccolo ronzio nell'audio, tu lo porti alla Philips, mi pare fosse, lo fai eliminare quel ronzio e te lo tieni, e caspita, era un Walkman da un centinaio di mila lire, aveva l'autore verse, bello, era molto molto all'avanguardia per l'epoca, stiamo parlando del fine anni 80, inizi 90, infatti era contenta, mi ha ringraziato tanto, però non me l'ha data, capito? E vabbè, non fa niente. Ho capito, per un periodo ho abitato qua, attaccato a me, Alberto, quello vicino al radio, poi era andato via, abitato qua vicino a me, capito? Infatti ci conosciamo bene, ci siamo visti anche da poco, e vabbè, era praticamente il figlio del vecchio, di quello che, del padrone vicino al radio, però ha gestito anche lui il negozio del padre, poi ha fatto altro. E adesso si occupa di marketing praticamente, sempre del settore musicale. Ah, ecco, ti volevo chiedere, dopo che ha chiuso il Cineradio, lui che cosa ha fatto, come ha lavorato, di cosa ha campato? Lui aveva il rifornitore di Saccaggia, il rifornitore oggi perché c'è a Saccaggia. Ah, quindi dalle gocce di elettronica di stereo è finito al distributore, dai, ha detto alle pompe. No, era il gestore veramente, non era detto alle pompe. Ha detto alle pompe c'era un ragazzo, lui era il gestore, capito? Era il gestore. Poi lì l'Agip ha deciso di chiuderlo con il rifornitore, lui adesso fa praticamente è tornato al suo lavoro. Si occupa di marketing sempre a livello musicale, capito? Meglia, guarda, Usciala Fossato, io avevo comprato un radione della, guarda, o Sony o Philips, no? Da Ocean, aveva preso da poco Ocean, 199.000 lire, bello, mi doppia cassetta, lettore di CD, radio FM, AM, no? Insomma, un bello completo, 199.000 lire. Lo stesso radione, l'ho visto a Cineradio, 430.000 lire, e me lo stavo guardando, ho detto, oh, caspita, questo è identico a quello che ho io, identico, stessa marca, stesso modello. E lui ha detto, ma l'hai preso da me? Ho detto, no, l'ho preso da Ocean. Dice, quanto l'hai pagato? Tre, tanti, no, no, 199.000 lire. E lui è rimasto di stucco, caspita, dice, questa è concorrenza sleale, meno della metà. È chiaro che la gente dice, poi lo compra lì, perché Ocean ne ordina 1.000 pezzi e lo vende a quel prezzo. Io non posso ordinare massimo 10 pezzi e lo posso vendere a quel prezzo lì. Infatti l'ha fossato Ocean per primo, poi sono arrivati tutti gli altri, Uneuro, Euronix, Troni, cos'altro c'è? Capito? Però quando ero ragazzino, caspita, bombe di roba bella, radio, stereo, baracchini, registratori a microcassette che a me piacevano un sacco. Infatti l'avevo comprato uno, non mi ricordo se l'avevo comprato da lui o da chi. Se quelli a microcassette, no? Quelle microcassette che ormai non esistono più, perché ormai ci sono i microregistratori digitali, non hanno bisogno di nulla, hanno la memoria incorporata, capito? Sì, infatti mi aveva detto quello, che avevamo deciso di mollare perché c'era troppa concorrenza, non si poteva lavorare più, capito? Era una cosa allucinante, infatti la realtà dei fatti è quella. Che ancora oggi i negozietti piccoli hanno tutti chiuso perché la concorrenza della grande distribuzione ha fatto sì che andasse tutto allo sfascio. Purtroppo è così, il grande si mangia sempre il piccolo. Pesce grande mangia pesce piccolo. Purtroppo, per esempio, anche i negozietti di scarpe, al centro storico, da tutto negozietti di scarpe, di abbigliamento, tutti chiuso perché poi Globo, caspita, con prezzi anche buoni, io ho trovato scarpe ottime, a prezzi popolari, poi una vasta scelta, un bel di colori, un bel di modelli, e Globo lavora bene, invece Pittarello Rosso, quelli così là, caspita, un paio di scarpe di plastica a 120 euro, ma stiamo scherzando, Pittarello Rosso, quelle schifezze lì, mi. Pittarello Rosso, devo andare a comprare le scarpe a Pittarello Rosso, ma tenante, lascia perdere, no, ma guarda, io vado quasi sempre da Globo, la passo in più, quelli sono i negozi dove vado io, e dico che le scarpe sono buone, non costano molto, ma sono buone. Adesso c'era l'offerta da Globo dei nuovi arrivi di Navigare. Sono le polacchette bellissime, Navigare, a ottobre costano quasi 100 euro, 90, 88 o 98, adesso mi ricordo. Le stanno dando come primi arrivi a metà prezzo, a metà, quindi se uno va le cose già le trova. Oh ragazzi, io devo chiudere che devono venire a pigliarmi, va. Vi saluto, alle prossime. Ciao Tatani. Mandami la foto, capito? Ciao, vai Marco. Venga, a pescare vai Natalì. Ehi, mi stanno portando stasera, lo stesso. Te l'avevo detto, dovevo andare a pescare. Te lo dico l'augurio, ah, per la pesca? E guarda se può essere, che ti tiro una fucilata là sotto. Mamma mia, va bene dai, divertiti Natalì, dai. Almeno passi una serata diversa. Fai bene a uscire, fai molto molto bene, dai. Ok, dai, ci sentiamo domani. Vai Claudio per i saluti. Ehi, aspetta, non avevo detto niente io, ve lo dici tu, dai. Ecco, di nuovo il telefono, aspetta. Qualche giorno andiamo assieme, Marcolino. Che voi, sai cos'è, tornate molto molto tardi. Io non... Tu dici, vabbè, dormo dalle 4 a casa, però a stare lì, no, non ce la faccio. Boh, mi stanco e boh. No, no, dai. Io andavo, che ne so, dalle 8, ma l'una me ne tornavo, mia, l'una e mezza me ne tornavo, con le... che mi scoccio anche a stare lì. Con me non ti scocci. Te lo dico io che non ti scocci. Porta una vodka, vodka al melone, vodka alla pesca, almeno ci ubriachiamo e anche se non peschiamo ci divertiamo. Al melone. Aspetta, noi l'abbiamo comprata al melone, è buona, a mia zia non piace perché dice è troppo dolce, non le scende, a me piace molto, poi quando è molto fredda mi è buona. E la vodka vuole bevuta fredda, quella al melone, è una lecornia. Quattro settimane c'è ancora sola da voi, cade in fretta. Poi a me a capotarmi basta poco, mi che sono disabituato al bere. Che schifo, mi piace a me. Oh, non ne ho mai bevuto, non ne verrò mai, né al melone, né che schifo. Vabbè via. Vabbè vai, vi saluto che sennò qua vengono e non è pronto nulla. Alle prossime. Ciao Tatani, a ci sentire. Eia, ciao Natalì, dai, buon proseguimento. Ok, o se no, no Claudio, una bella bottiglia di Montenegro, ce la crepiamo, eh? In spiaggia, anche quello è buono, anzi, caspita, più buono. Guarda, io te l'ho già detto, io super dolce ne bevo, il Montenegro ne bevo uno, non più di uno, ma massimo, guarda, esagerando due, quando siamo così come abbiamo fatto l'altra volta, come digestivo, se no mi nauseano, capito, mi fanno male, non sono abituato a berle io quelle cose lì, capito, no, assolutamente no, io mangiando bevo il vino, anche su un aperitivo, come è capitato qualche volta, magari stuzzicando qualche cosettina così al bar, bevo un frittantino, un vino bianco, una cosa del genere, ma mai né Campari né superalcolici, niente. Ehi, lo so, anch'io ne posso bere uno, se no mi sciabiteggia proprio. Invece, vabbè, adesso abbiamo altre priorità. Voglio provare il Braulio, l'amaro Braulio. Mi pare che abbia 21 gradi solo, quindi è leggero e costa meno degli altri. L'avevo già detto e ancora non l'ho preso però. Amaro di erbe di alta montagna, vediamo com'è. Comunque, vedi, anche lo Jägermeister è buono, però è 34 gradi o 35, è forte come amaro, è troppo forte. No, sono cose, qua io da poco sono andato a cena a mia figlia, e dopo cena ho fatto in casa, però era forte. Sto limoncino e sono stato tanto senza dormire, ma ne ho bevuto uno proprio. Mi ha nauseato, mamma mia, non sono più abituato. Quando ero più ragazzo avevo anche la parecchina, adesso non più, ripeto, solo uno o due bicchieri vino mangiando, fuori patto, sempre un vinellino, roba naturale, capito, non... Questi campari ti rovinano lo stomaco, il fegato, c'è la soda, no? Non va bene, assolutamente. Superalcolici proprio a livello, quelli grossi, niente. E questi amari può capitare qualche volta in pizzeria, capito, uno, due, ma non di più perché poi mi fa male. Poi si mischia col vino, se uno a pranzo prende il vino, poi mischia, è un casino. Sì. Poi ho notato una cosa sullo Jägermeister, che ha un fondo, alla fine ha un sottofondo di liquirizia, sa di liquirizia alla fine, è buono comunque, dai. In un film di Tarantino addirittura l'hanno citato, lo sai, un film americano, che volevano offrire a delle ragazze uno Jägermeister, no, uno ci aveva preso una bottiglia. E quello ha risposto l'amico, ma le ragazze non bevono Jägermeister, e lui, e vedrai che quando glielo dai cominciano a bere, già le piace. Pensa, un film americano l'hanno citato. Il film era Grindhouse a prova di morte. Sì, l'ho visto. Ma io c'ho un collega che è malato per questo liquore alla liquirizia. Da poco non è venuto neanche a lavorare, deve essere che è diventato nero la liquirizia. Se ne beve una cosa così stupida, così, mamma mia, sciogamusa, come farà a bere quella cosa lì? Infatti lunedì non l'ho visto, ha detto Antonio, ha telefonato, non stava bene, ha aiutato a usare la liquirizia, chi sa bitu. Eia, Valerio, sei rientrato? Ma tu a mangiare devi andare, no? Sì, fra poco, dai, senza impegno mi. Ah, ti volevo dire, mamma l'aveva preso lì con la liquirizia, però mamma mia, pesante, alla fine ti faceva venire vomito. Invece vedi, una cosa è lo Jägermeister, che c'è un fondino proprio di aroma di liquirizia, che ricorda la liquirizia, ma quello, proprio il liquore alla liquirizia era terrificante. Alla fine il vomito, cioè, non l'abbiamo nemmeno finito, mi pare ce l'abbiamo buttato. Troppo, mamma mia, sbronzati con quello, mamma mia, gli occhi te ne escono. Non sai quanto fa male. Ah, fa male pure, perché? Ma perché alza la pressione? E allora ho il cuore con l'arco, fatto proprio dalla liquirizia pura, ma fa un bel male, mi. Vabbè, a me un bicchierino farebbe bene, che poi mi non è, dice che la vera liquirizia, quella che alza la pressione, è il rametto di liquirizia puro da ciucciare. Allora sì, ma quello è di liquirizia, secondo me la fanno anche con le bustine, con le polverine la fanno, non credo che sia nemmeno liquirizia vera, secondo me è una cosa chimica che ricorda la liquirizia. Guarda, io sapevo far avanti a me, la liquirizia pura con questo proprio arco, l'ho proprio messo sulle labbra, la liquirizia pura, niente abilica proprio, ti fa la bocca nera, uno schifo. Guarda, invece, vabbè, il gin è molto pungente, no? Io ho gustato un gin che ha la bottiglietta celeste, chiamato Bombay Sapphire, ed era un gin più delicato, o comunque diciamo profumato, più aromatico, e sembrava profumo, buono, l'avevo preso al bar, no, palle, l'avevo gustato al circolo di Nicco, dove va Pomponio, lui si è preso, vabbè, la birra, io ho voluto gustare esclusivamente un bicchierino di, che poi te ne danno poco, te ne danno un pollice, non in verticale, in orizzontale, ed era un gin veramente buono, perché io ho il classico gin normale, no, il Gordon's, quello è più pungente, capito, invece quello era più profumato, secondo me piace anche alle donne quello. Ricordati, bottiglietta celeste, c'è scritto Bombay Sapphire, che vuol dire lo zaffiro di Bombay. L'ho vista quella bottiglia, io mi ricordo l'avrò vista, forse è il bar al quadrato, però no, non ne bevo io, non ne beh, ma sai io quanti di cuori c'ho, cazzo? Cioè, quando lavoravo nella zona di Tiesi, quelle zone lì, mi regalavano anche bottiglie di acqua a vite, ce li ho nuove, sono armati, ma non le bevo, non mi interessa. C'ho anche il gin, l'unica cosa che mi piace perché è leggera, fresca, d'estate, un goccettino di martini bianco, fresco, capito? Anche come aperitivo. Però una roba leggera così, ma non ne puoi bere più di uno o due anche di quelli, perché è roba sciogamosa, roba dolce, capito? Che fa male, no? O è meglio un bicchiere di vino buono e tira campato, vino rosso, capito? Ti fa il sangue bello pulito. Sì, guarda, qualcosa l'ho assaggiato, anche il rum. Mi avevano segnalato in particolare il Pampero Anniversario, quello che viene venduto, ha una bottiglietta un po' più bassa e tozza, e viene venduto in un sacchetto di pelle, un sacchetto di pelle vera, color beige. Ti dirò che non mi ha entusiasmato più di tanto il rum. Diciamo che è migliore dell'Havana Club. L'Havana Club 7 años. Non lo so, era più acre, non mi è piaciuto. Ecco, il Pampero Anniversario era più piacevole al gusto. L'Havana Club era più acre, infatti non lo prenderei più. Più che altro roba per ospiti, ma poi gli ospiti non ne bevono, gli ospiti bevono solo amaro o al massimo limoncino, o mirto limoncino, però da lì non escono, non ne bevono superalcolici, capito? Invece mia zia, caspita, adora l'amaro, ci va anche pesantino, Capogoggio. Lei se ne mette uno, buono buono, poi se ne mette un altro, buono buono, e se possibile se ne mette anche un terzo. Cioè a casa sua, qua ne beve uno, però a casa sua già arrabbiati. Amaro, amari vari, anche quelli da discount, quelli di Lidl per esempio, no? Un amaro alle erbe, buonissimo, niente da dire, buono, buono come sapore, poi leggero, infatti è 19 gradi o 21, capito? È utile comprare amari, certi hanno sapore di cinar pure, a me il cinar piaceva, me lo faceva gustare tanti anni fa nonno. Cinar a me piace, è una cosa diversa, però blanda, capito? Va bene per tutti. Va bene, vediamo chi c'è rimasto, se è rientrato Valerio. Chi c'è rimasto qua? Non c'è nessuno, c'è appagata, intanto fra un po' vado a portare il cane, è uscito presto stamattina. Ma io c'ho anche quello amaro del frate. Poi c'è un altro amaro, sempre a base di erbe, capito? Quello del frate c'è proprio la bottiglia del frate. Poi c'è quello che me l'aveva fatto comprare Franco. Ce l'aveva sempre lui a casa sua, sempre a base di erbe. Che sono anche abbastanza leggeri, insomma, se hai mangiato aria pesante fanno digerire. Però altre cose no. Poi, sapucari, Marco, sono porcherie, guarda, lascia aperto. Ascolta, ma questa amaro del frate per caso sa di uva, ha sapore proprio di uva? Ma è un sapore particolare, che ti dirò è amabile, è proprio, si sente roba di erbe. No, c'è la bottiglia del frate, però c'è scritto a base di erbe, capito? Aromatizzato di erbe. Ah, no, sai perché? Mia zia mi ha detto vai alla piazzetta. Alla piazzetta hanno questo amaro del frate. E quando lo bevi ha un sapore tipico di succo d'uva. Infatti una volta me l'ha offerto, ho detto caspita che buono, sembra di bere uva spremuta, di masticare chicchi d'uva. Buono, veramente buono, infatti quando capitiamo là lo prendiamo. Poi per esempio non so che sapore abbia il Lucano, mai provato. Poi c'era Mazzotti, Averna, e troppi soldi da investire in amari costosi. Almeno che sapere che gusto hanno, perché se vai al bar ti fanno pagare un bicchierino 4 euro se ti fidi. E allora per 4 euro mi compro una bottiglia e ce la usiamo piano piano. No, ma non costa 4 euro al bar, non so, costerà 2,50 euro, c'è un bicchiere a mia figlia. Non lo so, non ne bevo, io ti ripeto, non ne bevo, un cosa che non mi piace. Non mi piace, va bene, dai Marcolì, vado a portare il cane, sono già le 7:10, se devi cenare cena, se vuoi rientrare dopo, io tra una mezz'oretta sono veramente in radio, ok? Pranzare vorrei dire. Devo ancora pranzare io. Vabbè, io mi dimentico sempre tu alle 7 pranzo, io ceno, capito? Via. Pensa che c'è gente che cena alle 7 e si beggia. Caspita, alle 7. E come si fa poi? O vanno a letto all'ora delle galline. Il Natalino dice alle 9 certe volte è già a letto. L'ora delle galline, caspita, ma dico, posso capire andare a letto alle 11 mezzanotte, ma alle 9, caspita. Poi vabbè, ogni tanto fa strappi alla regola quando va a pescare. Bene, bene Claudio, dai, porta il cane, io qua lascio come sempre tutto acceso, poi se Dio vuole ci sentiamo dopo, dai, ok? Ciao ciao, buona serata. Va bene, io una mezz'oretta risalgo, dai. Faccio fare una passeggiatina a Filippo qua sotto e poi me ne risalto. A dopo, no, io prima delle 9 non c'ero mai. 9:15, le 9, a volte anche più tardi. Puoi andare a letto anch'io 11:30, mezzanotte. Non prima, anche quando lavoro. Va bene, dai, a dopo, ciao. Via, ciao ciao.